Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Bomber. Scusa, perché lo chiami Bomber? Così è come dire grande. Ciao grande. No, proprio no. Il Bomber è Bomber, punto. Ma cosa vuol dire? Ad esempio, io non sono un Bomber? No, per niente. Perché no? Te lo spiego io perché. Il Bomber prende il lavoro come un hobby, lavora perché deve, infatti impiega la maggior parte del tempo a fare tutt'altro. Il Bomber controlla l'andamento della sua popolarità sui social network e non perde tempo a condividere con i suoi colleghi un like ricevuto da una bella ragazza. Appena postata, tac, il like. Ma che è sta figa qua? Buttaci un like, no? Scrivila qualcosa. Metti qua la manina che ci penso io. Hashtag escile. Ma dovevi proprio? È certo che dovevo. Oh, se te la scoppi, merito mio, eh. In pausa, non parla della propria squadra, insulta le squadre degli avversari. Di questo passo l'anno prossimo la Juve è pronta. Vincete il campionato, eh. Di serie B. Non si sentano offesi i tifosi di calcio, gli appassionati di sport. Se oggi parliamo di bomberismo, con un'accezione negativa, non ce l'abbiamo con chi segue il calcio, ma semplicemente stiamo inseguendo quello che è un neologismo di cui si sente parlare da molto poco tempo, che vorrebbe individuare una porzione di umanità emergente in rete, ma soprattutto nei social network. Chi è il bomberista? Ma il bomberista è, diciamo, la cifra inaspettata da tutti gli osservatori dei fenomeni legati al web, alla rete. 20 anni fa si immaginava che l'emergere della cultura digitale facesse emergere un sentimento nuovo, un bisogno di condivisione, un senso civico, un senso che annullasse la proprietà in nome appunto della messa in comune di tutti i saperi. Si immaginava che il nerd sarebbe stato il padrone indiscusso di una nuova realtà in cui gli uomini si interfacciavano, si confrontavano, si scambiavano pareri. Invece siamo arrivati alla conclusione che oggi la rete è rappresentata da un fenomeno emergente nei social network che è sinonimo di violenza, di sopraffazione, di bassi istinti, ma soprattutto di odio radicale per ogni elaborazione del pensiero. Noi abbiamo già parlando di analfabetismo funzionale, abbiamo già mostrato alcune figure chiave e abbiamo mostrato anche i riflessi di questo istinto. Il bomberista è, diciamo, uno spirito da retrobottega di bar di paese, è trasportato nella condivisione nel social network. È qualcosa che ha delle poche realtà molto basiche. Il calcio, soprattutto nella figura del bomber, quindi del campione, di quello che ha tantissime donne, di quello che anche simbolicamente sfonda la porta dell'avversario, e quindi c'è un macismo profondo fondo nel bomberista, nella sua accezione più estrema, che poi non è assolutamente del tifoso di calcio, questa sua esaltazione della propria virilità, della propria, dell'orgoglio della propria ignoranza, dei pochi e radicali sistemi che danno a lui sicurezza, che il mondo è invaso da radical chic, da persone intellettuali, da persone molto di sinistra. Poi non è che sia di destra essenzialmente il bomber, è indifferente, al di là, al di sopra, ormai è il punto zero della riscrittura di ogni ideologia. Il bomber molte volte, dilettandosi in rete, passando molto tempo in rete, essendo molto narcisista, facendosi molti selfie e mostrando molte volte il suo corpo palestrato, le sue pettinature elaborate, la sua barba da hipster, il suo abbigliamento che lui ritiene selettivo e significativo di un modo d'essere, ama aggrupparsi con gli altri bomber, come accade appunto nei baretti di paese o accadeva negli anni 50 e 60, e fa delle azioni molto precise, delle azioni che sono il disturbo sistematico attraverso appunto attività di diffusione di odio in rete, di supporter radicale per degli atti estremi, danno fuoco a un barbone, il bomber dice fanno bene, mettono delle zingare in una gabbia, le fanno urlare, dice è ora che finalmente qualcuno faccia qualcosa di radicale nei confronti degli zingari, nei suoi bersagli preferiti le donne ci devono stare, se non ci stanno, se ti lasciano, Dio mio, comincia un'operazione molto precisa di denigrazione e di violenza, di diffusione di immagini, soprattutto nei gruppi chiusi su Facebook, che sono il vero regno in cui si manifesta il bomberismo in questa sua forma. Beh, oggi di questo fenomeno vogliamo parlare, lo vogliamo approfondire con chi l'ha studiato, con chi ha approfondito il tema, chi ha dato, comincia a dare corpo e sistema a una nuova classificazione dell'umanità, che forse è una classificazione antichissima. Il bomberista altro non è che l'italiano medio, che finalmente emerge, lo vediamo, ci guardiamo in faccia, ci conosciamo, noi siamo questo, non siamo diversi da questo. Ma inizieremo il nostro racconto attraverso una storia, attraverso l'esito, perché potremmo anche depotenziare e sdrammatizzare l'idea del bomberista, ma in fondo sono ragazzi, giocano, cosa c'è di male, dicono quello che pensano, siete voi che siete ipocriti. No, portato a il suo risultato estremo, l'azione del bomberista coalizzato, ammassato e attivo, porta al risultato che è sintetizzato dalla storia, vi racconteremo fra un istante. 800240024, avete qualcosa da aggiungere, qualcosa da protestare, oppure qualcosa da integrare, quella che è un'idea che in questo momento stiamo cercando noi stessi di mettere assieme. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Io posso indicarti la strada verso il successo. Io voglio diventare un fenomeno social senza sbattermi. Don't worry, no sbatti. C'è del bomber in lui, ma è pronto. Che ne pensi tu, o gran visir dei bomber? C'è da lavorare. Prima legge dei bomber, tattoti sul petto qualche parola a caso, così sembri più interessante. Sono colui che ti costringerà a lavorare. No! Enjoy! Ci sono varie avvisaglie in rete che cominciano a concretizzarsi attorno al termine bomberismo. Una delle prime, forse al momento più esaustiva lettura del fenomeno, la fa Vincenzo Marino su Vice Italia, che ha fatto un pezzo appunto che traccia una prima fenomenologia del bomberismo, che lui definisce appunto l'italiano medio 2.0. Lo abbiamo al telefono, Vincenzo Marino, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è dell'idea che il bomberista in realtà non sia altro che una sorta di uscita attraverso la cartina al tornasole dei social network, strumenti alla portata di tutti, facili da usare, di una figura già esistente e stravaccata nei nostri bar, nei nostri caffè dello sport, lungo le corsie degli stadi o anche semplicemente nelle sedi di tanti uffici pubblici? Non sono particolarmente convinto. In realtà nell'articolo non citavo proprio una connessione stretta con l'effettiva realtà, il vissuto magari dei bar che faceva lei, e più in generale non sono d'accordo con la definizione del personaggio del bomber come colui che si esprime in questo modo contestualmente, va in palestra, si fa crescere la barba, si veste in un certo modo. In realtà non c'è una definizione abbastanza univica di bomberista o di bomber, non c'è una persona che si può definire bomber, c'è più in generale una cosa che si può definire bomberismo e che avevo cercato di coniare per definire, dare un'etichetta a un fenomeno online ancora abbastanza liquido che si muove in questi mesi soprattutto. Stiamo cercando appunto di definirlo attraverso pochissime, le fonti sono pochissime, c'è il suo articolo su Vice, c'è una voce di un'enciclopedia, c'è qualche altro, qualcuno cerca di definirlo. È di fatto che comunque una sorta di lecita, affrancata capacità di esprimersi in maniera rozza, violenta e drastica sta emergendo nei social. Sì, questo è vero, però la differenza rispetto al semplice parlare in modo violento sui social network attraverso il bomberismo è un'altra. Io per bomberismo avevo cercato di dare una definizione del genere, ossia l'esaltazione di comportamenti sostanzialmente sessisti, xenofobi, ma ammantati da livelli di ironia più o meno certi o incerti, e questa è la caratteristica che differenzia da quelli da una violenza normale di base, perché attraverso livelli di ironia più o meno consapevoli si riesce in qualche modo a scagionarsi da qualsiasi accusa di xenofobia, sessismo, e in questo afflato generalmente si tende ad esaltare la vita ignorante di provincia, del bomber vero, Oppure il concetto di degrado stesso. Che vediamo, Vincenzo, se riusciamo a dare un elemento in più, poi assieme ascoltiamo la storia, perché la storia poi è l'esito di quello che lei sta dicendo in maniera perfetta. Il bomberista, almeno nell'accezione che sta coniando Vincenzo Marino dal suo articolo su Vice, poi è aperta la discussione. Da qui ai mesi prossimi se ne parlerà molto, ognuno poi troverà la sua maniera per definirlo meglio. È l'antico vecchio razzismo, macismo, intransigenza, insensibilità verso comunque ogni forma di debolezza nel mondo, che però viene in qualche maniera giustificata dal fatto: ma via, siamo ragazzi, scherziamo, come se fossero gli scherzi da spogliatoio in cui tutto è lecito, l'abbiamo detto nello spogliatoio, ma in realtà poi si compiono degli atti veri di discriminazione, veri, che hanno anche degli esiti concreti. Certo, in questo caso l'esempio più plateale secondo me è quello del video di Follonica di qualche settimana fa. Praticamente c'era questo video in cui, molti di voi l'avranno visto, c'erano due rom, due donne di etnia rom che erano state sorprese a rovistare nella spazzatura di un discount. Messe in gabbia, cioè. In gabbia da alcuni dipendenti. Ecco, quel video, che ha girato tantissimo, ha fatto numeri incredibili, è stato poi ripreso dalla pagina di Matteo Salvini su Facebook. Ha funzionato perché? Perché cementificava un pregiudizio razziale piuttosto comune, quello che i rom rubano in qualche modo, e ha circolato in maniera così vorticosa che Salvini ne ha fatto un messaggio in qualche modo politico. E il punto è questo qui: se da un lato non possiamo stupirci del fatto che esistono dei razzisti, cosa che purtroppo è sempre esistita nella storia dell'umanità, il razzismo più o meno consapevole, dall'altro però non possiamo non segnare il fatto che in quello stesso momento magari una battuta ironica su delle rom rinchiuse in una gabbia dipendenti del discount, fatte da persone che magari non sono razziste, magari non sono leghiste, venivano praticamente propalate con gli stessi messaggi, le stesse posizioni che poi Salvini ha fatto sue. Cioè, in quel momento una persona totalmente distante magari dalla politica aveva le stesse posizioni di Salvini. Se tu prendi un messaggio in qualche modo ironico, meteoronico del genere, e lo estrapoli dalla sua cornice ironica, quello stesso messaggio può tranquillamente diventare un messaggio politico, violento, xenofobo. Diciamo che l'ammantare in uno stile che può essere ironico, dissacratorio, che è tipico delle discussioni in rete sui social, quelle che sono categorie della civiltà che sembrano conquistate, ci fa tornare un passo indietro. Ma questo stesso meccanismo lo applichiamo anche in un altro campo. Il bomberista tipico è anche l'afficato tipico, che per lui, diciamo, è fondamentale la donna ridotta alla parte più essenziale della sua femminilità, e guai chi dice il contrario. Insomma, gli eccessi politicamente corretto sembrano affrancare un'azione violenta che diventa anche criminale a certi punti. Voi siete mai stati vittime di qualcosa che assomiglia a questo fenomeno attraverso la rete? 800240024. E andiamo al punto. La storia di Marta. Marta, buongiorno. Buongiorno. L'ho fatta ascoltare in silenzio, che stiamo definendo un fenomeno che potrebbe avere a che fare comunque con qualcosa che ha segnato appunto la sua esperienza. Ma comincia a raccontare a lei cosa è accaduto, poi vediamo assieme a Vincenzo Marino se ha a che fare con la parte più oscura o con la proiezione concreta di quello che potrebbe essere soltanto chiamato un fenomeno di costume. Cosa le è accaduto a lei, Marta? Vivevo con una persona, con il mio ragazzo. Eri fidanzata con un ragazzo? Sì, ero fidanzata, l'ho lasciato, ha iniziato un'attività di stalking per cui attualmente è perseguito penalmente. Quindi ha un'azione penale a tutti gli effetti? Sì, assolutamente. A seguito di un, tra virgolette, banale, perché non è mai banale e non è mai semplice, lo stalking è una cosa che quando la si subisce, la si vive, è qualcosa di orribile, vivi nel terrore puro. Nel momento in cui non riusciva a sortire effetti, perché ovviamente io non reagivo in alcuna maniera, come dicono di fare nei centri antiviolenza, no? Dicono non rispondere, non reagire, non dargli corda. Ecco, scusi Marta, lo stalking di cui parla era un'attività al di fuori della rete, cioè la perseguitava? No, è stata sia al di fuori che all'interno della rete, già lì ha cominciato a... A noi ci interessa l'aspetto in rete, perché parliamo di un fenomeno in rete, che nasce... In rete ha iniziato a contattarmi in tutte le maniere, cercare di un contatto con me, non riuscendo in quella maniera ha iniziato a creare profili a mio nome con mie foto personali, dopo avermi già minacciato che avrebbe fatto, poi l'ha fatto davvero. Ha iniziato a creare dei profili a mio nome, poi altri profili falsi, a pubblicare mie foto, in parte ero a conoscenza dell'esistenza di certe foto, altre foto invece non sapevo nemmeno che me le avesse fatte, le ho scoperte nel momento in cui le ho viste sul web, e ha iniziato a contattare chiunque potesse conoscermi. Non pago di questo, non mi sembrava sufficiente a quanto pare, ha scoperto i gruppi Facebook. Il fenomeno di turno, quindi cominciamo a entrare, ecco, questa è la parte che in questo momento cerchiamo di toccare, esatto, con la nostra riflessione. La prima è stata un'attività di tipica dello stalker che non ammette di essere lasciato, ti ha infastidito, ha fatto dei profili fake con le tue foto, mandava le tue foto in giro, delle foto personali che era tuo pieno diritto avere, ma non che lui le diffondesse. Poi è cominciato il fenomeno dentro i gruppi chiusi. Qui in qualche maniera ci vedi qualche sintomo rispetto a quello di cui stiamo parlando? Stiamo parlando esattamente di questo. Ecco, allora come si trasforma? Come si trasforma il bomberista? Una volta si trova chiuso in un gruppo Facebook in cui può chiaramente mostrare quello che per lui è il vero valore dell'esistenza. L'eroe di turno, il bomberista, all'interno di questi gruppi, denigrare la propria ex fidanzata raccontando storie false, pubblicando foto, mettendo alla gogna l'intimità e la propria relazione, lì trova terreno fertile, trova una tifoseria di ultra proprio che si mettono. Ma tu sei entrata in questi gruppi, hai visto quello che accadeva? Sì. Dacci qualche idea, perché non è detto che tutti quelli che ascoltano abbiano idea di quello che possa accadere. Come avviene un gruppo chiuso Facebook, un gruppo di persone, titoli hanno questi gruppi, come vengono identificati, sono delle parole comuni per conoscerli, per capirli, per comprenderli? Beh, loro inneggiano al degrado, inneggiano alla pastorizia, all'essere gretti, grezzi, all'andare contro ogni stereotipo di buon costume. Cioè la pastorizia come il trionfo della massima attività elementare, dell'ignoranza. Ecco, noi siamo pastori, quindi ci possiamo permettere qualunque cosa. Siamo gretti, noi siamo feroci, noi siamo forti perché facciamo gruppo. E nel momento in cui vengono pubblicati questi tipi di post, nello specifico io posso raccontare quello che è accaduto a me, ma è accaduto anche ad altre donne, perché io mentre assistevo allo scempio della mia immagine, assistevo anche allo scempio di altre donne. Arrivava il profilo rigorosamente falso di turno, pubblicava storie degradanti con foto collegate, quindi un bell'album di almeno una dozzina di fotografie della donna, in questo caso ero io, e con indirizzi, nomi, tutto quello che poteva essere utilizzato per, cioè, col tuo vero nome, con il suo vero indirizzo, in modo che lei fosse identificabile al 100%. Esatto. E la storia dove si va a denigrare la persona, nel mio specifico ha raccontato delle storie fuori dalla grazia di Dio sui miei presunti rapporti, non si sa come né con chi. Vabbè, quelli sono fatti, cioè nella vita privata di ognuno che ha una relazione ci sono dei momenti intimi, chiaro, se uno li racconta possono sembrare epici, ma sono le banali cose che avvengono fra esseri umani. No, è che proprio lui raccontava cose che non sono mai esistite ed erano veramente grette, veramente delle cose che non bisognerei nemmeno mai di fare. Ma qual è il valore, il farsi bello in una congrega di bomberisti nel raccontare le vicende della propria ex fidanzata? Questo vorrei capire, non mi sfugge. Qual è il merito di raccontare quello che faceva la ex fidanzata? L'idea è quella di mettere alla gogna questa donna, perché poi tutti gli utenti, ai tempi in cui c'ero io, erano centomila persone. Centomila? Sì, tutti gli utenti vengono poi invitati a contattare la donna in questione, ovvero io, e a molestarla, a chiedere rapporti sessuali, a ingiuriarla, a fare shitstorm, si chiama il termine proprio tecnico e specifico di questo tipo di attività, ovvero quando centinaia di persone vengono a chiederti l'amicizia, inviano messaggi, inviano fotografie loro. Cioè diciamo la classica formula è: guardate che troia è la mia ex, ecco, tanto scusi, sì, il termine, ma è questo tanto alla fine. Esatto, sì. E sì, tutti gli altri sentono esaltati, diciamo, a questo punto la misoginia insita nel bomberista viene fuori e tutti addosso, toia semplicemente perché ha lasciato uno di loro. Fermiamoci un istante, fermiamoci con Vincenzo Marino, che risentiamo tra poco di Vice, con Marta sta raccontando la sua storia e Matteo che ci ha chiamato, che si è trovato a fare la figura di bomberista solo perché ha commentato un post. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, oggi parliamo di bomberismo, un termine che ancora avrete sentito dire in maniera molto, molto rara, ma da oggi in poi vedrete che se ne parlerà sempre di più. Mi ha scritto un ascoltatore una mezz'ora fa dicendo: oggi parli di queste cazzate. Dopo un quarto d'ora ho detto: sono cose serie, scusa, non sono cazzate. Matteo, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non conoscevo ancora il termine bomberista, infatti. Ma diciamo che è emergente, sta nascendo proprio in questo periodo. È un termine che già esisteva, si sta applicando a una categoria umana che si sta conquistando comunque degli spazi di visibilità. Niente, io una sera vedo sulla mia bacheca Facebook un intervento di quelli che di solito mi mandano in bestia, cioè la foto divisa a metà, da una parte una donna bellissima in spiaggia con solo un perizoma, dall'altra parte la donna tutta coperta, poi sotto la solita scritta del tipo: la nostra cultura è questa, la loro cultura è quella, io preferisco la nostra. Stavo per rispondere malissimo, poi vedo che l'ha pubblicato un tizio che conosco da tempo, che so essere un tipo alla Pierino di Alvaro Vitali. Allora voglio essere pungente senza essere troppo cattivo, gli scrivo: guarda che a te quella di sinistra non toccherebbe mai, a te casomai toccherebbe la buzzicona, e a destra c'è una donna tutta coperta che magari è la stessa buzzicona, che non si fa vedere per fortuna di tutti. Ma quindi non è che sia poi così peggio l'altra cultura, meglio insomma. Vabbè, forse sono stato un po' troppo intellettuale, ho usato questo termine che ha fatto arrabbiare una terza persona che mi ha criticato per il termine buzzicona, guarda che qua l'ha sopraffatto del femminismo spiccio. Beh sì, onestamente poi... Matteo, se fossi tua sorella non ti piacerebbe la chiamassero buzzicona. Questo, io guarda, non sono, mi accusano di essere radical chic, politicamente corretto, ma solamente nasco dalla campagna, io in mezzo alla pastorizia ci sono stato davvero fino a 20 anni. Ti dico, ci siamo un pochino evoluti e inciviliti, oggi non diresti mai una ragazza pingue buzzicona, perché si ma offende. Ma sai qual è il problema? Esatto, sai qual è il problema? Questo di capirlo, quando, capito? Sì, sì, quando sei sul social... tu sei sul tuo divano e pensi che sia un discorso privato tra te e il tuo amico a cui stai rispondendo. Questo è proprio il limite, questo è proprio lo sbaglio. Dobbiamo svegliarci. È veramente il problema. Non è una cosa, non è che parli col tuo amico nello spogliatoio, puoi anche dire buzzicona, rimane fra voi. Esatto. È che il social ormai è pubblico, ciò che accade nel social è pubblico. Va bene, è chiaro e penso che è stato utile parlare con te. Stefano. Sì. Buongiorno. Chiamo perché questo problema io lo vedo ogni giorno sui social, su Facebook, e ho notato che c'è la possibilità di segnalare eventuali interventi di questo genere, solo che il sistema di segnalazione molto spesso non porta a nessun risultato, perché ci sono persone che pubblicano bufale, hanno degli atteggiamenti che vanno oltre il semplice scemo o cretino, ma sei indifeso tu che vorresti rispondere in maniera corretta e gentile, e fa notare che c'è qualcosa che non va. Diciamo che laddove si profila un reato, i reati vengono perseguiti. La storia di Marta ha una sua coda giudiziaria, la persona che gli ha creato questo disagio, diffondendo in gruppi di centinaia di migliaia di persone sue foto personali, insulti, denigrazioni sulla sua persona, è comunque in qualche maniera attenzionato dalla legge. Su quelle che sono semplicemente gli strumenti web per segnalare, chiudere, funzionano, perché molti di questi gruppi poi sono chiusi. Naturalmente chi li chiude poi è vittima a sua volta del bomberismo di chi si è chiuso, è una catena inestinguibile. Diciamo che l'umanità si sta adattando a una dimensione in cui non era abituata, in cui emergono delle forme che sembrano più nascoste, più attenuate o controllabili e controllate di intransigenza, di inciviltà, e di questo oggi stiamo parlando. Volevo sentire un attimo Vincenzo Marino, giornalista di Vice, che ha lavorato, elaborato e sta studiando la fenomenologia del bomberista rispetto alla vicenda di Marta. Questo è l'esito in cui noi smettiamo di parlare di un fenomeno di costume su cui possiamo farci mille elucubrazioni, ma entriamo proprio nel vivo di un'attività diffamatoria e anche lesiva fortemente della persona. Sì, tra l'altro vorrei far notare una cosa abbastanza interessante, gli stessi ospiti della puntata potranno confermare, molti di questi gruppi chiusi tra l'altro sono pieni di ragazze, di donne, quindi non è una cosa che proviene istintivamente o prettamente dall'uomo, ma un atteggiamento più generalizzato, e molte volte sono le stesse donne a applicare metodi, diciamo, del che genere. Il bomberismo è una categoria dell'esistenza che può essere diciamo perseguita e impugnata sia da uomini che da donne. La donna bomberista è quella che affianca, dice sì, brutta troia, schifosa, infame, la stessa cosa dice, ma è come il fenomeno del bullismo. Il bull è circondato da una seconda schiera di probabilmente non bulli, ma fiancheggiatori del bull per non essere a loro volta vittime. Le donne che stanno nei circoli bomberisti sono quelle che almeno pensano di essere salvaguardate a loro volta di essere sputtanate dai loro fidanzati. Non sei d'accordo? Sì, ma in questo caso si tratta di qualcosa che secondo me è nuovo e dobbiamo ancora riuscire a trovare i confini a qualcosa del genere. Ci hanno provato a livello puramente teorico all'estero autori e giornali di varia stazione, coniando definizione come quella di modern misogyny o meninismo, ossia un tipo diverso quantomeno nei modi e nei metodi di misoginia che all'interno dei gruppi Facebook, chat WhatsApp o comunque la mente delle generiche online si è espressa in quella che a sua volta è stata definita come manosfera, ossia un insieme di blog, forum, community sui social in cui si commentano questioni maschili, non solo tra maschi, condividendo comunque la mente delle sessiste, antifemministe. Diciamo che la controriforma del femminismo, il femminismo in maniera talmente stufato che le donne diventano odiatrici delle donne stesse. Sì, è un fenomeno che è abbastanza usuale in queste pagine, in questi gruppi, esattamente così. Sentiamo Marta, allora riprendiamo la tua testimonianza rispetto a quello che diceva Vincenzo Marino adesso. In questi gruppi bomberisti, le donne erano ugualmente attive che gli uomini nel denigrarti, nel prender parte all'opera di dileggio generale? Allora, nel denigrarmi sotto i post qualcosina, nei messaggi, nel fare poi la shitstorm un po' meno, quello che ho visto poi a seguito, perché c'è un seguito a questi post, non sono finite lì le mie immagini, ma sono finite poi in una ulteriore cartella, nota come la Bibbia. Spiega bene agli ascoltatori cos'è la Bibbia, così almeno. La Bibbia è una raccolta di immagini, quota, siamo arrivati nella quarta edizione a più di 10.000 fotografie, nella terza edizione erano presenti immagini pedopornografiche, la quarta edizione l'ho fatta scaricare direttamente alle autorità, non l'ho scaricata personalmente. Anche perché poi dopo vieni considerata complice di chi ha messo quelle immagini. Io sono anche parte lesa, quindi fino a un certo punto io vengo toccata. Ecco, la Bibbia dove si trova? Dove è collocata? Bibbia viene condivisa, viene caricata su Dropbox, su spazi web, dove qualunque spazio web, Dropbox come Google Drive. Quindi ci si scambia il link per potersela scaricare. Esatto, su questi gruppi vengono condivisi anche i link. Io vengo contattata tuttora a distanza di un anno e mezzo da queste persone. Quindi in questi contenitori di foto scene hanno messo anche le tue foto. Nome e cognome. Quindi le persone che vanno a scaricarsi le cartelle della Bibbia perché vogliono indirizzi e nomi di persone che poi alla fine vogliono soltanto infastidire, penso, no? O chiedere sesso. Chiedono sesso. Quindi pensano che comunque dentro la Bibbia ci sono persone veramente consenzienti, disposte a concedersi sessualmente. Il problema è che alcune sono consenzienti, molte no. Ecco, allora facciamo un distinguo. Nella Bibbia molte mettono le loro foto perché cercano sesso, ma gente che non c'entra niente. No, è sempre il discorso delle donne all'interno di questi gruppi. Su questo, se mi permette. No, spiegacelo bene, no, interessante. Allora, la figura della donna all'interno di questi gruppi si divide in due fazioni. Ci sono le cagne, cioè quelle che vengono prese di mira, e poi ci sono le piccole reginette di turno, del ballo di turno, che è il gruppo, che sono delle persone, a mio avviso, totalmente disturbate e assolutamente fragili, insicure e complessate, ma a livelli esponenziali. Uno, perché esistono in questi gruppi queste donne che cercano approvazione, non è che cercano di proteggersi da un eventuale shitstorm a loro volta, da essere attaccate. No, no, no, loro proprio considerano l'essere anche tante volte attaccate come una forma di attenzione. Cioè, guardiamo un attimo a che livello di sfigataggine stanno queste ragazze. Beh, sai, la sottocultura esiste, è inutile farsi illusioni. Noi pensiamo sempre che il mondo sia come gli intelligenti, simpatici amici con purtroppo cui ci confrontiamo. Io non ero abituata a questo sottolivello di mondo. L'ho scoperto con questa... Una volta, lo sai, ti dico Marta, ce ne accorgevamo noi maschietti quando facciamo il servizio militare. Improvvisamente fare il servizio militare significava entrare in realtà che tu non immaginavi nemmeno che esistessero. Persone che non parlavano nemmeno la lingua italiana, persone che ti facevano delle cose che nemmeno pensavi possibili e immaginabili. Oggi la rete ritorna alla vecchia sana iniziazione, come si diceva una volta, che era per un uomo fare il servizio militare. Fermiamoci solo un istante, Marta, continuo con te, ma solo fra un minuto. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando di bomberismo, un termine a cui dovrete abituarvi. Faccio una precisazione, a me sembra superflua, ma forse non lo è tanto, alla luce della telefonata dell'ascoltatore poco fa che diceva: ma sai, quando commenti un post seduto sul divano non ti rendi conto che lo vede il mondo intero. No, la rete ormai è sott'occhio del mondo intero. E ricordo che pubblicare delle foto contro la volontà e il consenso di chi a quella foto è rappresentata è un reato. Se queste foto poi vengono unite a dei toni denigratori, degli insulti, entrano nella vita privata delle persone, è un reato penale a tutti gli effetti, è un reato che si paga, per cui si è perseguiti, non è un gioco. Entrare in un gruppo Facebook e fare gli spiritosi con un cretino che ti mostra le foto ex fidanzata, ti racconta le sue prodezze sessuali, è un reato, comunque sia un reato. Se poi qualcuno va avanti, tu a tutti gli effetti sei perseguito come se tu compissi un reato. Questo dovete rendervene conto, non è un gioco. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sono Francesco da Modena. Salve. Sì. A Modena bomber tempo fa aveva l'accezione, il significato di un po' in sfottò di chi era un po' tronfo, un po' pieno di sé, ecco, diciamo. Di un bulletto, un bullo era il bulletto, uno che raccontava le sue avventure in modo tronfio, gonfiato. Poi come vedi, può essere che l'origine sia da Modena, poi Vincenzo Marino, che sta studiando una fenomenologia, farà questa ulteriore analisi, però diventa esattamente questo. Il bomber che era il bulletto fra ragazzi di Modena è esattamente il bomber che ormai fa il bullo criminale nei gruppi Facebook. Penso che l'esito, la rete ha amplificato semplicemente quella che era una figura abbastanza banale nella provincia italiana. Marino, su questa accezione del bomber modenese sapevi qualcosa? No, del bomber modenese non in particolare. Però avevo pensato di utilizzare la parola bomberismo, ma avrei potuto tranquillamente utilizzare anche, che ne so, ignorantismo, pastorismo, perché non è qualcosa che prende prettamente le mosse da una terminologia da applicare soltanto a una persona, né dal punto di vista sociale né dal punto di vista geografico. Però per come ho cercato di ricostruire un po' una griglia sociologica, intellettuale di questo tipo di fenomeno, ho cercato di dargli l'accezione di bomberismo perché l'ho fatta partire più o meno dalle pagine che trattano di calcio, le pagine Facebook che trattano di calcio e che adesso tra l'altro stanno anche esondando nei media mainstream. Perché partivo dal calcio? Spiego brevemente così cerchiamo di essere chiari. E non si offendono soprattutto i tifosi, perché già mi stanno scrivendo. Sì, è un'altra cosa. Nei gestori di alcune pagine che magari sono incolpevoli, gestiscono le loro pagine in maniera del tutto legittima, senza offendere nessuno. Avevo cercato di parlare di bomberismo proprio perché le pagine calcistiche sono di alcune pagine calcistiche sono uno dei primi motori. Per quale motivo? Perché in queste pagine solitamente si gioca a fare l'esaltazione delle cose di una volta che sono sempre migliori di quelle di adesso, che sono più sane e autentiche di quelle di oggi. Allo stesso modo i calciatori più ignoranti, quelli degli anni 90, facevano gol anche se si distruggevano di sigarette, mortadelle e Dreher. Ma addirittura Gianni Rivera è un prototipo di bomberista, che è un bravo ragazzo. No, è qualcosa che fa affonda più agli anni 90, al concetto di calciatore degli anni 90, che è quello un po' più precedente. Allo stesso modo quindi si salta il calcio di provincia, il calcio ignorante, il degrado, il calcio bestemmiato, dei campetti di periferia. E quindi partendo da questo tipo di concetto per cui qualsiasi cosa che era di una volta e che è più sana, più ignorante, più casereccia, migliore di quella di adesso, più sofisticata sia in termini materiali che in termini di ragionamento, allo stesso modo questa stessa griglia di pensiero può essere applicata al resto dell'esistenza. Mio caro, devi anche considerare, tu sei più giovane di me, che in Italia non si fanno guerre da almeno 70 anni e se una volta il mito della virilità, della strafottenza era l'ardito, il combattente, il guerriero, il conquistatore, oggi è il calciatore. Semplicemente lo stesso modello ideale viene portato nelle figure che sembrano più vicine comunque a quel modello. Oggi è il calciatore che ha tanti soldi, che può spendere e che è forte. Diverso, non c'entra proprio il calciatore in sé, è proprio la PAI. Queste pagine qui che sono andate un po' prima sono il veicolo di questi messaggi, proprio per questo, perché così come il calciatore di un tempo, degli anni 90, era meglio di quello di oggi, così le ragazze di qualche decennio fa erano molto meno facili di quelle di oggi. Quindi cercano donne meno facili, il bomberista. Il passaggio è questo, nel momento in cui vengono condivise immagini ironiche sulle donne, anche sulle pagine calcistiche, come è successo, e donne che vengono anche su queste chiamate cagne, c'era una competizione un paio di anni fa su una pagina che si chiamava Questa Paglia Cup, da queste pagine calcistiche poi in qualche modo è esondata questo tipo di retorica bomberista, che ho definito proprio per questo motivo, anche su altre pagine che sono poi quelle che sentiamo allora come finisce la storia di Marta. Marta, noi portiamo elementi teorici perché vogliamo analizzare il fenomeno, ma vediamo quanto nella tua storia tutto questo c'entra e ha un senso. Mi si è accapponata la pelle quando ho sentito la parola le ragazze sono più facili oggi, e che semplicemente è quello che si dice in questi gruppi? In questi gruppi sono tutti quanti convinti che la mamma, la sorella e la fidanzata sono sante e non hanno rapporti sessuali nemmeno con loro quando ce li hanno, non sono loro, sono altre donne. Poi invece le altre, il discorso è che le altre, io vorrei anche... Beh, è un sentimento arcaico proprio della parte più antica del nostro paese, che le donne sono tutte puttane meno la mamma, la sorella e non so, la fidanzata magari. Il problema è che le donne si sono... un pochino evolute, più che più facili, sono un po' più evolute, fanno le stesse cose che fanno gli uomini, questa cosa gli uomini spaventa, si devono raggruppare per potersi ricordare tra di loro che hanno ancora degli attributi, potrebbero averli tranquillamente anche comportandosi in maniera educata gli attributi, non è questo che li distingue da un eunuco, comunque... Senti, mi dici Marta come ne esci adesso però da questa storia? Non ne sono ancora uscita. Nel senso che... A parte l'aspetto processuale, diciamo, comunque sia a vita le tue foto rimarranno chiuse da qualche parte, gireranno in rete. Le foto continuano ad essere in rete, io continuo a venire molestato occasionalmente, continuo a vedere altre donne vittime nel frattempo che continuano a cadere, qualcuna non ha la forza di affrontare la cosa come lo sto facendo, qualcuna... rimettendoci la vita, rinunciando alla sua vita, prendiamo la Cantone. La Cantone è stato un caso tipico. Esatto, mi ha insegnato cosa non fare. Non ho avuto un grandissimo supporto, o comunque sia, io ho dovuto lottare veramente con le unghie e con i denti per avere giustizia, perché non esiste una giurisprudenza in merito a quello che viene chiamato, c'è un termine specifico per questo tipo di violenza, si chiama revenge porn, lo chiamano, a me non piace come termine, però... La vendetta attraverso la pornografia, ecco. Esatto. E c'è un'altra cosa che vorrei ribadire, e ci tengo tantissimo a ribadirla. Quello che si fa su Facebook è una propria responsabilità, quello che scrivi nei commenti è una tua responsabilità, quello che fai online non è una vita parallela, anche perché online si cerca anche lavoro, metti anche il tuo curriculum con nome, cognome, numero di telefono, cosa che per inciso io non posso fare perché vengo ricondotta alla Bibbia, quindi io ho anche difficoltà a lavorare. E questo ti ha danneggiato vita. Anche nella tua vita sociale, non soltanto nei sentimenti. Esattamente. E vorrei specificare bene una cosa, non è reato avere una fotografia propria nella propria intimità. Certo. Scattarsi una foto, io posso scattarmi una foto come accidenti mi pare. Ma questo nessuno lo mette in dubbio. Il reato è prendere la mia foto e pubblicarla, il reato è il ragazzino che commenta e che offende. In secondo luogo vorrei precisare un'altra cosa importante, il bomber, no è meno importante però, il bomber palestrato e quant'altro, non è così. Il bomber in realtà io ne ho conosciuti intorno ai 1800 di questi bomber che mi hanno... Cerca di concludere che la sigla ci porta via, dimmi un concetto finale. Non sono così palestrati, sono ragazzini delle medie, sono bambini. E quindi diciamo c'è bisogno che si cominci a far passare una cultura digitale più approfondita anche attraverso le famiglie, visto che di famiglia parlano tutti. Torneremo su questo caso, il bomberismo non si esaurisce qua, perlomeno a Meloga. Alla prossima.